mi sorridono le stelle, gli occhi tuoi ne sognano perché le vedo in cielo splendere più belle nel desiderio che mi spinge a te. Forse sarà l'amor la tua Maria, tu m'hai rubato il cuor, passione mia. Se lo spezzerai con le tue pene, se ne pre ripeterò, se ti voglio.